Catechismo cristiano. 1. Come può essere divisa l'umanità? L'umanità può essere divisa in due categorie: atei, Salmo 14, 1, e religiosi, 1 Corinzi 8, 5. 2. Chi sono gli atei? Sono coloro che negano l'esistenza di Dio e vivono come se non ci fosse, Luca 18.2. 3. È possibile essere onestamente atei? No. Perché presuppone una conoscenza illimitata, e Dio potrebbe trovarsi dove non sappiamo, Ecclesiaste 6.12, 8.7, 10.14, Romani 1.18.32. 4. Chi sono i religiosi? Sono coloro che hanno un sistema di relazione con un essere supremo, o divinità, Salmo 135, 15. 5. Quante espressioni religiose ci sono? Tante. Quante l'uomo ne ha potuto inventare? 1 Corinzi 8, 5, Michea 4, 5. 6. Esiste l'espressione religiosa giusta? Sì. Perché non può esserci un'espressione religiosa falsa se non verenne, è una vera? 1 Corinzi 8, 4 a 6, come non può esistere una moneta falsa se non c'è n, è una vera. 7. Qual è l'espressione religiosa vera? La divinità, che si è rivelata al popolo ebraico e ai primi cristiani, cioè la fede ebreo-cristiana. 8. Esiste veramente una vera e unica divinità? Sì. Se esistono false divinità, significa che esiste una sola vera divinità. 1 Corinzi 8:6. Diversamente tutte sarebbero false o tutte vere. Se sono tutte false, allora viviamo dai religiosi. Se sono tutte vere, Gesù è il più falso religioso che si conosca perché ha detto di essere lui la divinità di Israele. 9. Come si chiama questa divinità? I tre nomi più comuni in ebraico sono Elohim, Adonai, Yahweh, 2 Samuele 7 e 28. 10. Qual è il suo vero nome? Il suo vero nome è Yahweh, Esodo 6.3. 11. Come sono tradotti questi nomi in italiano? Secondo le versioni della Bibbia. In alcune versioni sono tradotti Elohim, con Dio, Adonaj, con Signore o Padrone, Yahweh, con Eterno. 12. Come possiamo ritenere questi nomi? Elohim è un nome generico attribuibile anche a qualsiasi deità falsa, alle autorità, come i re e sacerdoti, Esodo 7.1. Salmo 82.6. Adonaj è un nome comune attribuibile spesso a persone in autorità, come mariti e padroni, Genesi 18.12. Yahweh è il nome proprio della divinità, che si è rivelata sul monte Sinai, ai padri e ai profeti, Esodo 6.3. 13. Che significato ha il nome Yahweh? Yahweh, definito anche tetragramma, è un nome impronunciabile e incomprensibile. Per gli ebrei si scrive Yahweh, ma non lo leggono e lo pronunciano Adonai. 14. Chi è Yahweh? Yahweh è Gesù Cristo, Giovanni 8.58. 15. Perché possiamo dire che Yahweh è Gesù Cristo? Perché lui stesso lo ha detto, lo testimoniano le scritture e gli apostoli, Giovanni 8.24, 1 Corinzi 10, 4 Esodo 3.1, 4 15. Se Gesù è Yahweh, allora egli ha creato ogni cosa, Colossi 1.16, Giovanni 1.3. 16. Come ha creato Cristo la razza umana? Li ha creati maschio e femmina, Genesi 1.27. 17. Perché possiamo dire che ha creato ogni cosa Cristo? Perché la Bibbia lo dice, e i passi che seguono hanno in comune una verità. Ogni cosa fu fatta per mezzo di Lui. Giovanni 1.13, 10, Eb 1.12, Col 1.16, 1 Cor 8.6, Pro 11.36. 18. Perché Cristo ha creato un maschio e una femmina? Per poterli creare a immagine della pluralità di Dio, Genesi 1.27. Infatti nella divinità vi sono sia caratteri maschili, sia femminili. 19. Perché possiamo dire che in Dio vi è una pluralità? Perché nella divinità sussistono tre persone. I nomi stessi di Adonai, Signori, e Elohim, Dii, si riferiscono ad una pluripersonalità. Esodo 34, 23. 20. Chi sono queste tre persone che sussistono in Dio? Sono il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. 2 Corinzi 13, 13. 21. Chi è il Padre? La prima persona della Trinità che ha mandato suo Figlio, 1 Corinzi 15 e 24, riattira gli uomini a Cristo, Giovanni 6.44. 22. Chi è il Figlio? La seconda persona della Trinità che è morto in croce, 1 Corinzi 15 e 28, e risorto, 1 Corinzi 15. 23. Chi è lo Spirito Santo? La terza persona della Trinità che rigenera il credente, Atti 5, 1 a 4, e gli rivela ogni cosa di Dio, 1 Corinzi 2, 10. 24. Allora vi sono tre dei? No, vi è un solo Dio in quanto alla natura, non in quanto al numero. Dio è uno, ma non è solo, Genesi 1 e 26. 25. Perché Dio tramite Cristo ha creato l'uomo? Cioè, maschio e femmina, Genesi 5.12. Per amore, per farlo partecipe della sua gloria, Giovanni 17 e 22. 26. Come ha creato Cristo l'uomo? Ha formato prima il maschio, Adamo, con della polvere della terra, poi la femmina, Eva, con della carne tratta da Adamo. In seguito, li pose nel giardino dell'Eden, Genesi 2, 7. 27. Cosa successe nel giardino dell'Eden? Adamo ed Eva disubbidirono al comandamento di Yahweh di non mangiare il frutto proibito. Genesi 3, 6. 28. Perché disubbidirono? Perché Eva fu sedotta da Satana. 2 Corinzi 11, 3. E volle essere come Dio. Genesi 3, 5. 29. Chi è Satana? Un essere angelico creato, avversario e nemico di Dio, MT 13.39, fu creato perfetto e volle essere come Dio, Ezechiele 28.12. Per questo fu eternamente cacciato dalla presenza di Dio, Luca 10.18, senza possibilità di ravvedimento perché non fu tentato, Ezechiele 28.14.17. Ora in terra. Matteo 4.3 e nei luoghi celesti, Efesini 6.12, sarà gettato in terra. Apocalisse 12.89, per sedurre i popoli. Verrà legato 1000 anni, Apocalisse 22, e infine sarà gettato nel luogo della dannazione eterna con tutti i suoi seguaci angeli e gli uomini che commettono il suo stesso peccato di orgoglio. Apocalisse 20.10. 30. Quale fu la conseguenza della disubbidienza di Adamo ed Eva? La morte. 31. Kos è la morte? Il termine morte significa separazione. Genesi 2:17. 32. Quali furono le conseguenze di questa separazione? La morte spirituale, cioè la separazione da Dio, e la morte fisica, cioè la separazione dell'anima dal corpo. La vita è un travaglio continuo, Romani 8:22, i dolori del parto per la donna sarebbero moltiplicati. Adamo e Eva furono cacciati dall'Eden, Genesi capitolo 3, Romani capitolo 5, perché non mangiassero del frutto dell'albero della vita per rimanere così eternamente separati da Dio e avere la possibilità di essere salvati, Genesi 3.24. 33. Quali furono le conseguenze della morte o separazione spirituale? La razza umana di conseguenza nasce già separata da Dio, cioè perduta. Inoltre, ogni essere umano riceve al momento del concepimento una natura peccatrice tendente a compiere ogni sorta di male. Romani 5:12. 34. Come può l'uomo risolvere questo stato di cose? Per lui è impossibile. Matteo 19:26. 35. Allora l'uomo è irrimediabilmente perduto? Sì, per quanto dipende da lui. No, perché Dio ha pensato a risolvere ogni problema. Luca 1:37. 36. in che modo Dio ha risolto il problema della separazione con l'uomo? Egli ha dato Gesù Cristo perché morisse in croce, Romani 8 e 32 al nostro posto. 37. Perché Gesù Cristo è morto in croce? Affinché chiunque crede che la sua morte sia sufficiente per ottenere la giustizia di Dio abbia vita eterna. Giovanni 3:16. 38. Cos è la vita eterna. Non è un luogo beato, neppure una vita felice per l'eternità, ma è una persona. Gesù Cristo, 1 Giovanni 5.1112. Avere la vita eterna significa avere Gesù Cristo e con Lui tutto ciò che è eternamente positivo e godibile. 39. Si può perdere la vita eterna, cioè Gesù Cristo? Non è possibile, Giovanni 8 e 35, 10 e 29. 40. Perché chi crede in Cristo ha vita eterna? Perché con il suo sacrificio Gesù ha riconciliato l'uomo a Dio e i peccati degli uomini sono già tutti perdonati. Passati, presente, futuri, 2 Corinzi 5 e 18. E dove vi è il perdono dei peccati, non è più ragione di offrire un culto per chiedere perdono, Ebrei 10 e 18, e per ripetere il sacrificio di Cristo, Ebrei 7 e 27, 9 e 26, 28, 10 e 10. 41. Allora tutti gli uomini sono riconciliati con Dio o salvati? No. Solo chi crede e accetta l'opera sostitutoria e sufficiente di Gesù Cristo, Giovanni 3 e 36. 42. E le buone opere dell'uomo che valore hanno? Nessun valore per la salvezza, ma senza di esse non si può essere salvati. 1 Corinzi 6, 9 e 10. Sono la conseguenza e la condizione per essere figli di Dio, Efesini 2.10. 43. Perché? Perché le opere fanno parte della fede. La fede senza opere non è una fede completa o efficace. Giacomo 2, 14, 26. 44. Cosa succede a chi non crede in Gesù Cristo? Rimane separato da Dio, cioè perduto, sia in questa vita e sia dopo la morte fisica. Luca 16 e 26. Non è Dio che manda alla perdizione gli uomini se non credono, ma sono i perduti che stanno andando verso la perdizione. 45. Cosa significa essere perduti? In questa vita significa vivere schiavi del peccato e separati da Dio. Nell'aldilà significa andare in un luogo dove non vi è Dio, cioè in un luogo di tormenti e dolore. Tale luogo viene chiamato inferno, Matteo 13 e 42. 46. Esiste veramente questo luogo di tormenti? Sì. È un luogo preparato da Dio per Satana e gli angeli che furono disubbidienti, Matteo 25, 41, e nel quale andranno anche gli esseri umani, Apocalisse 20 e 15, per soffrire senza fine, Daniele 12.2. 47. Perché andranno in questo luogo di perdizione? Perché avranno scelto o amato il male più del bene, e non vogliono ora sottomettersi al volere di Dio, Giovanni 3 e 19, Deuteronomio 30.1520. 48. Chi mi garantisce che queste cose sono vere? La parola di Dio, cioè la Bibbia, Apocalisse 22, 6. 49. Cos è la Bibbia? E una raccolta di 66 libri divisi in due grandi parti, Antico e Nuovo Patto. 50. Chi ha scritto questi libri? Degli uomini ispirati da Dio, 2 Pietro 1 e 21. 51. Chi mi garantisce che questi uomini sono stati ispirati da Dio? Perché ciò che hanno scritto non poteva essere il prodotto della loro mente. Le profezie e concetti di perdizione, di salvezza e di grazia non rientrano nella logica umana, 1 Corinzi 2, 9 Abacuc 1, 5. 52. Quali prove abbiamo per dimostrare che i concetti di perdizione, di salvezza e di grazia sono divini? Perché nessuno di noi è convinto di meritare la condanna eterna. Nessuno di noi avrebbe mai pensato che solo Dio potesse salvare l'uomo. Nessuno di noi crede che la salvezza sia un dono di Dio. E di conseguenza l'uomo è salvato per sola grazia, cioè senza nessuna opera, 1 Corinzi 1:23. 53. Perché bisogna credere nella parola di Dio? Non vi sono anche altri testi religiosi? Perché solo ciò che è scritto nella Bibbia è vero, Giovanni 17:7, e non è mai stato seriamente contraddetto. 54. Chi mi garantisce che solo la Bibbia è la parola divinamente ispirata del vero Dio Trino? Gesù Cristo, Luca 21:23. 55. Perché dobbiamo credere a Gesù Cristo e non anche ad altri fondatori di religioni? Perché Lui ha detto di essere la via, la verità e la vita. Nessuno è stato ed è perfetto come Lui, Giovanni 8:46. Nessuno conosce Dio se non Lui, Giovanni 1:18. Nessuno ha mai parlato come Lui, Giovanni 14:6. Nessuno è stato ucciso perché diceva di essere Dio, Giovanni 5:18. Nessuno ha risuscitato se stesso, Giovanni 10:18. Nessun uomo proviene dal cielo. Giovanni 3:13. Nessuno può parlare con Dio se non tramite Lui. 1 Timoteo 2:5. Nessuno con... 56. Cosa ha insegnato Gesù? Nulla che non sia stato fondamentalmente già presente nell'Antico Patto. Matteo 5:17. 57. Che valore hanno per noi oggi le leggi l'Antico Patto? La legge di Dio si può dividere in 3 parti. Legge cerimoniale o cultuale. Legge civile, legge spirituale. 58. Queste leggi sono ancora valide? La legge cerimoniale è stata abolita da Gesù, mentre per la legge civile il credente è sottoposto a quella dove abita. La legge spirituale si trova anche nelle altre 2 leggi, ed è eterna. 59. In cosa consiste il nuovo patto? E, stato abolito il sacerdote come intermediario perché Gesù è il solo e unico intermediario tra Dio e gli uomini, un teramitro. 2.5. Non si fanno più sacrifici per i peccati, Ebrei 10:18, tutti i credenti sono istruiti direttamente da Dio, Ebrei 8:11. Si osservano i comandamenti di Dio come risposta d'amore, 1 Giovanni 4:19. 60. Quali sono i comandamenti più importanti? Amare Dio e il prossimo, Marco 12:29-31, Levitico 19:18, osservare lo spirito dei 10 comandamenti, Esodo 20, e fare agli altri ciò che si vorrebbe che si facesse a noi, Matteo 7:12. 61. Cosa devo fare per amare Dio? Ascoltarlo e osservare ciò che Lui ha detto, 1 Giovanni 5:3. 62. Cosa devo fare per amare il prossimo? Amare Dio e occuparmi concretamente dei suoi bisognosi, 1 Giovanni 5:2, principalmente dei figli di Dio, Galati 6:10. 63. Come può essere riassunto il mio comportamento verso il prossimo? Fare a lui ciò che desidero che lui faccia a me, Matteo 7:12. 64. Come posso sapere in definitiva che osservo i comandamenti di Dio? Quando credo in Gesù Cristo e osservo la sua parola, 1 Giovanni 3:23. 65. Cosa significa credere in Gesù Cristo? Significa aver fiducia in Lui e a Lui. Significa credere che, secondo la sua testimonianza, sono per nascita irrimediabilmente perduto e figlio di Satana. In seguito credo e accetto il suo sacrificio come l'unica possibilità di salvezza. Lo ricevo nella mia vita come Signore e Salvatore, e solo da quel momento divento un figlio di Dio. Giovanni 1:12, 1 Giovanni 5:10-15, 1 Giovanni 3:10. 66. Come posso sapere di aver creduto veramente in Gesù Cristo? Quando osservo ciò che è scritto nella parola di Dio. Quando odio il peccato, amo la santità e i figli di Dio. 1 Giovanni 2:3-67. Cos è il peccato? Non è trasgredire la morale comune, ma l'incredulità, la ribellione, la trasgressione o la violazione della legge di Dio. 1 Giovanni 3:4. 68. Come posso sapere che amo i figli di Dio? Quando amo Dio e desidero la loro compagnia, ed esprimo la mia fede con la Chiesa locale di Dio, 1 Giovanni 2, 19. 5, 2. 69. Quante chiese ci sono? Ci sono tante chiese locali, ma esiste una sola Chiesa universale, definita anche Sposa di Cristo. Apocalisse 19, 7. 70. Chi appartiene alla Chiesa universale di Dio? Non chi fa parte di una religione cattolica protestante ebraica, ma tutti coloro che sono nati di nuovo dalla Pentecoste al ritorno di Cristo, Giovanni 3, 5. 71. E i credenti prima della Pentecoste e dopo il ritorno di Cristo che posizione hanno davanti a Dio? Avranno una posizione beata, ma non faranno parte della sposa. Teniamo presente che il futuro dei credenti non sarà piatto. Non saremo tutti uguali, Matteo 5, 19. Non brilleremo tutti nella stessa maniera. Non avremo tutti lo stesso premio. Romani 8, 17. Non conosceremo e non serviremo Dio tutti nello stesso modo. Apocalisse 7, 13, 15. Non tutti. Occuperemo la stessa posizione, Matteo 20 e 23. Non tutti risorgeremo con la stessa gloria, Ebrei 11 e 35. Ma tutto sarà proporzionato alle vittorie che avremo perseguito qui in terra, come avremo investito saggiamente. Chi è che è nato di nuovo? Colui che ha udito l'Evangelo, che ha creduto alla sua naturale perdizione e ricevuto la salvezza unicamente in Gesù Cristo, e ha ricevuto lo Spirito Santo. La nuova nascita non avviene tramite uno sforzo umano, mediante l'autorità di un altro uomo, né mediante una trasmissione umana. Giovanni 3, 5. 73. Cosa deve fare colui che è nato di nuovo? Deve farsi battezzare, prendere la cena del Signore, Atti 2, 41-42, e testimoniare, 1 Pietro 3.15. 74. Perché il credente deve farsi battezzare e prendere la cena del Signore? Perché sono gli unici due sacramenti, segni cerimoniali di cosa sacra, che Gesù ha dato alla sua Chiesa in attesa del suo ritorno. 75. Cos è il battesimo? E una testimonianza pubblica di essere nato di nuovo e di essere stato giustificato, fatta mediante l'immersione completa sotto l'acqua, Giovanni 3, 23. 76. Cosa vuol dire per il credente essere giustificato? Significa che Dio cancella il suo peccato e lo considera o lo dichiara giusto. Come se non avesse mai commesso un errore, al punto da dire «ero un peccatore, nemico e senza forza». Romani 5.6.10. 77. Cos è la cena del Signore? E quell'atto mediante il quale si prende del pane e del vino in ricordo della morte e resurrezione di Cristo, Luca 22.19. Tale atto è segno di comunione tra i credenti che appartengono al corpo di Cristo. 78. Cosa ricorda ancora la cena del Signore al credente? Il ritorno glorioso di Cristo, e che Gesù è morto perché chi ha creduto in Lui non viva per se stesso, ma per Cristo. 2 Corinzi 5:15. 79. Una vita vissuta per Cristo che conseguenze ha? Sulla terra vivrà da appagato, la grazia di Dio sarà sufficiente in ogni situazione, 2 Corinzi 12, 9, e in cielo il credente avrà dei premi e delle corone, e sarà servito da Cristo, Luca mezzogiorno e 37. 80. Si può concepire un futuro migliore? No. Nessuna religione, nessuna fede, può eguagliare le promesse che troviamo nella parola di Dio. Vale la pena essere credenti e vivere da cristiani, perché i premi di Dio, secondo la sua abitudine, sono sempre più grandi della nostra immaginazione, 1 Corinzi 2, 9. 81. Che differenza passa tra il credente e il cristiano? Il credente è chiunque ha fede in un supremo, e per questo anche ogni cristiano è un credente. Il cristiano è colui che lo diventa con un cammino conforme al volere di Cristo, e per questo non tutti i credenti sono cristiani. Il re Agrippa credeva ai profeti, Atti 26-28. Simon Mago credette a Filippo, Atti 8.13. Alcuni giudei avevano creduto in Gesù ma lo volevano uccidere. Giovanni 8.3-1-3-7. I demoni credono che esista un solo Dio e tremano, Giacomo 2.19, e perciò sono credenti, ma non cristiani. 82. Allora coloro che credono in Cristo e sono nati di nuovo non sono tutti cristiani? Sì. La Bibbia non dice mai che chi nasce di nuovo diventi subito un cristiano. Cristiano ridiventa è colui che odia, cioè rifiuta e non persevera nel peccato, 1 Giovanni 5.18, e abbandona ogni espressione religiosa che non è conforme al volere di Dio, 1 Corinzi 12.2, 1 Tessalonicesi 1.9.10. Un credente che rivolge preghiere non solo a Dio o a Cristo, se la parola di Dio non è per lui la massima autorità in materia di fede e di condotta, e se non ama i figli di Dio, se non si riconosce un pellegrino su questa terra e non attende il ritorno di Cristo, non ha il diritto di definirsi un cristiano. 1 Giovanni 3.14. 83. Il credente che non vive da cristiano è salvato? Solo Dio conosce i cuori degli uomini e solo Lui sa chi è salvato. 2 Timoteo 2.19. Ma per quanto sta a noi esseri umani, non possiamo dichiarare cristiano chi non ha un cammino di santificazione conforme alla volontà di Dio, e con lui non è possibile avere comunione. Romani 16.1.7.18, 1 Corinzi 5.9.13, 2 Corinzi 6.1.4-7.1, 2 Tessalonicesi 3.6.15, Tito 3.8.10, Matteo 18.84. Cosa significa santificarsi o vivere da santo? Significa avere un comportamento separato dal peccato, comportamento che si mostra anche nello sposare solo una persona nata di nuovo, 2 Corinzi 6.14, e essere sottomessi alle autorità stabilite da Dio, Romani 13.1. 85. Che differenza passa tra essere sottomessi e obbedire? Essere sottomessi ha a che fare con l'atteggiamento, cioè non mancare di rispetto di onore nei confronti delle autorità. Ubbidire ha a che fare con il comportamento, cioè fare ciò che è richiesto. Perciò è possibile essere sottomessi ma non ubbidire. La sottomissione è totale, l'ubbidienza parziale. 86. In quali casi si può disubbidire alle autorità civili o spirituali? In due casi. 1. Quando l'ordine è espressamente contrario al volere di Dio, Atti 4.19. 2. Quando l'ordine, pur non andando contro il volere di Dio, turba profondamente la propria coscienza. 87. Il cristiano deve aspettarsi dei premi in cielo? Sì, ma ora deve aspettare Gesù Cristo che deve ritornare per rapire la sua Chiesa, 1 Tessalonicesi 4.17. 88. Cos è il rapimento della Chiesa? È quell'avvenimento mediante il quale Gesù Cristo porterà in cielo coloro che hanno posto fede in Lui, ebrei e non. Ebrei morti e viventi. 1 Tessalonicesi 4.17. 89. Quando avverrà il rapimento della Chiesa? Nessuno lo sa. Matteo 25.13. Quello che Dio ha promesso è che la Chiesa rapita tornerà con Cristo per regnare con Lui 1000 anni sulla terra. Zaccaria 14.3.8 Apocalisse 20.6. 90. Cosa deve fare allora il credente? Non deve addormentarsi, né lasciarsi sedurre dai piaceri della vita. Deve aspettare il ritorno di Cristo, e intanto amare, servire, soffrire, vivere per Lui, testimoniare, come se tornasse in questo istante. 1 Tessalonicesi 5.6. 91. Come deve testimoniare il credente? In due modi, verbalmente, 2 Corinzi 4.1-3, e con la vita, Efesini 5.8. Con la bocca deve confessare che Gesù Cristo è il padrone di questo mondo e della sua vita, col 4.1. Con un cammino conforme alla volontà di Cristo espressa nella sua parola, Efesini 5.28, 1 Pietro 1.16. 92. Come può un credente svolgere tutto questo? Non per le sue capacità, 2 Corinzi 3.5, ma è l'opera che lo Spirito Santo compie in lui esprimendo le sue caratteristiche, che vengono chiamati doni, Galati 5, 16-25. Questa verità, creduta, impedisce il credente di inorgoglirsi e diventare vanaglorioso, Galati 5.26. 93. Cosa sono dunque i doni dello Spirito Santo? Non è una virtù che ha ricevuto il credente come se fosse distinta dallo Spirito, ma è lo Spirito Santo che manifesta se stesso. 1 Corinzi 12, 7. Per questo in ogni credente la persona dello Spirito esprime doni diversi. Efesini 4.8, 1 Corinzi 12.11. Nessun dono è obbligatorio per tutti. 1 Corinzi 12.30. Da non dimenticare che ogni dono senza l'amore non giova a nulla. 1 Corinzi 13.94. In definitiva, qual è il ruolo del credente cristiano? È quello di essere sottomesso all'azione dello Spirito Santo, Giovanni 3.8, azione definita anche Cristo vive in me. Galati 2.20. Questa è la vita cristiana, normale, semplice, divina. Galati 5.16. 95. In quale pericolo può incorrere il credente? Nel concepire il cristianesimo come qualcosa da raggiungere, da possedere, da ambire, e per questo si sforza. Si sforza. Mentre non si tratta d'altro che di una posizione ottenuta, e dalla quale a volte è possibile uscire. Galati 5.4, 3.27, 1 Corinzi 1.30. 96. Come risolvere questo pericolo? Da parte sua il credente deve metterci tutto l'impegno possibile. 2 Pietro 1.10, Deuteronomio 4.2, 2 Corinzi 5.9, 2 Timoteo 2.15. Deve studiare seriamente ciò che possiede. Efesini 1.1523, vivere di conseguenza. Proverbi 13.7. Facendo della grazia di Dio il modello della vita. Ebrei 13.9.